arrivò a Vienna per suonare della sua musica. Nella residenza del suo padrone, il principe arcivescovo di Salisburgo. Io andai lì impaziente di trovarmelo di fronte. Quella notte cambiò la mia vita. Mentre vagavo per i saloni, escogitai una sorta di giochino in cui cimentarmi. Quell'uomo aveva scritto il suo primo concerto all'età di 4 anni. La sua prima sinfonia a 7, un'opera completa a 12. Quale traccia poteva lasciare un simile talento sopra un volto? Quale tra tutti quegli individui poteva essere lui? Benvenuti e benvenute alla Fuga del Gatto. Oggi domenica 20 novembre, una giornata neanche troppo fredda per fortuna, infatti stiamo patendo il freddo un po' meno del solito nella Wombat Regia. E come avete potuto, qualcuno di voi forse ha intuito da questa piccola clip che vi abbiamo fatto sentire, oggi parliamo di un tema veramente scottante e di vero gossip della musica classica, ovvero il rapporto ambiguo di amore e odio, di passione, gelosia e quant'altro di Salieri e Mozart. Abbiamo per aiutarci a parlarne una ospite che è la nostra ospite ormai quasi fissa, Virginia. Che ci aiuterà a dipanare questo mistero. E vi diciamo subito che la prima clip che vi abbiamo fatto sentire, qualcuno l'avrà riconosciuta, è tratta da Amadeus, e un film strafamoso che penso che molti di voi avranno visto. Ne avremo occasione di parlarne, vi spiegheremo le verità e le cose inventate. E insomma, però in realtà vogliamo farvi sentire un sacco di bella musica di Mozart e anche di Salieri, del sottovalutatissimo, ma ormai neanche più troppo, Salieri. E quindi, non lo so, iniziamo un pochino a entrare dentro questo meandro di questo mistero. Sì, appunto, un mistero buffo, proprio per buttarla lì. Che ha avvolto un po' soprattutto la figura di Salieri, perché chiaramente nei secoli Mozart ha avuto la sua giusta fama e gloria ed è stato giustamente riconosciuto dal genio qual era. Paradossalmente Salieri, come diremo poi avanti, più famoso in vita in realtà, più appunto più musicista di successo, compositore, insegnante in vita, è entrato un po' appunto, passato un po' più diciamo nell'ombra della storia, se non per chi chiaramente studia e ricerca, per cui chiaramente è una figura importante, però diciamo per il pubblico più vasto, e paradossalmente venuto un po' alla ribalta grazie anche a queste voci, a queste speculazioni, a questo alone di mistero sul suo rapporto con Mozart. Vedremo poi via via durante la trasmissione che in realtà è molta fantasia, nel senso tutta questa, come spesso succede e come spesso è, la fantasia è molto più interessante della realtà storica, e però ben venga se, come in questo caso, è servita a portare alla luce, in realtà a riportare alla luce una figura come quella di Salieri. E per cui appunto forse diciamo se ne sa di meno rispetto a Mozart, di cui chiaramente no? se ne parla, se ne straparla e si conosce di più. Salieri forse per il vasto pubblico, ripeto, ormai neanche più troppo, però è meno conosciuto, E c'è da dire che invece è una gloria nazionale perché nasce appunto a Legnago nel 1750, adesso tra l'altro nel suo paese natale di Legnago, che credo sia, non vorrei dire una stroneria vicino Verona, c'è anche un bellissimo teatro dell'opera dedicato apposta a lui e una fondazione, insomma, che gli tributa, insomma, il giusto riconoscimento. Nasce a Legnago e intraprende una carriera di grande fortuna che lo porta poi, tra le altre cose, a divenire anche compositore e maestro di cappella alla corte asburgica di Vienna. Quindi, insomma, ecco, niente di popò di meno che, Poverino. come si diceva. E autore di tantissime, insomma, opere molto importanti, come vedremo poi più avanti. E in particolare rappresentante appunto di quella che è una stagione del classicismo piuttosto significativa e fondante per tutto quello che verrà poi diciamo dopo. Il suo rapporto con Mozart è appunto non troppo documentato, purtroppo, molto si è molto speculato. Ci sono molto speculato e in realtà, appunto, vedremo poi via via che mette in luce degli aspetti abbastanza interessanti più che per il gossip in sé, per quanto rappresenta questa dicotomia tra l'opera, la classica opera italiana e un certo, insomma, una certa retaggio del classicismo musicale, contrapposto invece poi a questo genio dirompente. Soprattutto sempre molto in evoluzione, che era Mozart in quel momento. Cioè, in realtà mi viene in mente che poi potrebbe rappresentare anche proprio, e lo rappresenta, un archetipo in generale, anche al di là dei due singoli personaggi Certo. e della loro musica, ma in generale un po' dell'invidia tra musicisti e non solo musicisti, artisti e comunque persone dotate di talento creativo e del rapporto conflittuale che si instaura spesso tra persone dotate appunto di un talento simile, non necessariamente l'uno inferiore all'altro, ma di fatto si instaura un rapporto Ecco, sì, strano. nel caso di loro, appunto, in realtà si sono incontrati mo molto meno e appunto in situazioni che poi sono state appunto gonfiate, c'è cioè stato ricamato sopra e poi vedremo perché, però di base sicuramente si sono incrociati e in un momento storico, appunto, si parla poi della Vienna alla fine, insomma, del suo momento di gloria, diciamo, del momento in Il cui appunto, momentone. esatto, il classicismo musicale era un po' appunto al suo picco, ma già un po' in fase, diciamo, discendente, e in cui appunto Mozart rappresenta poi anche tutto un vento innovativo forte che paradossalmente in quel momento non riscuote successo, a differenza, poi, come vedremo, di Salieri, che invece era appunto un artista di punta. Quindi chiaramente bisogna sempre leggere la storia no? Cercando di immedesimarsi e di capire qual era la situazione del momento e non come chiaramente poi i musicisti e gli artisti sono stati visti poi a posteriori. Perché in questo caso c'è proprio un'inversione, cioè in quel momento Salieri era veramente un artista di punta e paradossalmente Mozart, per quanto riconosciuto, chiaramente grandissimo, non era certo quello che noi consideriamo adesso e che è stato poi Era un pischello. studiato. Sì, diciamo che era più che un pischello, era proprio, non era di sicuro al momento della fine della sua carriera rispetto invece a come lo era Salieri. Certo. Quindi. E vi facciamo già sentire un pezzettino? Che dici? Sì. Vi facciamo sentire Mozart a questo punto, iniziamo dal, appunto, colui che non era all'apice della carriera e che era ancora alle prese con le sue prime cose, ma vi facciamo sentire una sinfonia numero 1 in Mi bemolle, detta la KV16, e primo tempo allegro molto, in realtà è un pezzo che non dura tantissimo, dura 6 minuti buoni, ve la facciamo sentire perché vabbè, è abbastanza rappresentativa e vale la pena di sentirsela. Abbiamo sentito, era appunto Mozart, sinfonia numero 1 in Mi bemolle, KV16, e del 1764 Mozart aveva 18 anni appunto. Cioè, ecco, appunto, quando vabbè. Si parla di Mozart poi bisogna sempre ricordare che il tempo è relativo, perché è morto giovanissimo, ai noi, a 36 anni. Insomma, era diciamo in auge da quando ce l'aveva 6 fondamentalmente. A metà carriera. Esatto, quindi ecco, bisogna pensare che quando si parla appunto di questo artista si deve sempre ricordare che essendo insomma l'arco della sua vita, della sua carriera, quindi così breve, è quasi, no? Risulta difficile credere che poi sia stato possibile in realtà la grande quantità di produzione rispetto alla durata della vita. Altra cosa è che lo contrappone in realtà a Salieri, anche in questo speculare, cioè una lunga vita per l'epoca e una lunghissima carriera. Più diluita. Sì, ecco, chiaro, in maniera ovviamente diversa. Ma infatti ora sentiamo proprio Salieri per fare anche un veloce confronto brutale, perché appunto abbiamo sentito una sinfonia di Mozart e ora sentiamo una sinfonia di Salieri. Sentiamo in particolare la sinfonia veneziana in re maggiore, è divisa in tre tempi, che vi facciamo sentire tutti, durerà all'incirca un 10 minuti, però ci piace farvela sentire tutta e poi pare brutto dividere le cose a metà. E tre tempi, il primo è allegro assai, il secondo andantino grazioso e il terzo presto. E ve la facciamo sentire e poi dopo magari continuiamo e vi raccontiamo un pochino meglio il tutto. E questa era appunto Salieri, la Sinfonia Veneziana in Re maggiore, e con questi due ascolti abbiamo iniziato ad entrarci dentro l'opera di questi due maledetti geni. E adesso iniziamo un pochino a raccontarvi anche le origini di questo mito, della rivalità tra i due, perché effettivamente finora vi abbiamo un po' parlato dei singoli. E non ci siamo ancora addentrati in quello che poi è diventato appunto una leggenda, un mito. Che questo mito in realtà, certo, noi lo conosciamo poi noi figli degli anni 80 della televisione, non so voi, io Amadeus l'ho visto 800 volte, prima mi ci addormentavo davanti, poi dopo lo rivedevo tutto. Idem. Però proprio boh, mi ci sono perso un sacco di volte. Però obiettivamente sì, ok, bello Amadeus, però non è lì l'origine del mito, ma arriva da molto più lontano. Esatto, in realtà ha origini, questo diciamo poi vedremo abbastanza falso storico, ha in realtà origini piuttosto nobili, letterariamente parlando, perché lo scrittore russo Pushkin, con la sua piccola tragedia Mozart e Salieri, nel 1830 appunto dà vita a questa. Appunto a questo duello, appunto a questa messa in contrapposizione, appunto basata però fondamentalmente sulla sua La fantasia, sua ipotesi. su sue ipotesi. Non so quanto Pushkin poi chiaramente si fosse documentato, in realtà non c'è neanche troppo, almeno all'epoca poi non c'era troppo su cui documentarsi, per Sì, poi cui. nell'Ottocento si usava a fare un po' Esatto, c'è un po' esatto, romanzare. questa fiction che Pushkin monta su questi due personaggi, e di sicuro una fiction di qualità, perché si parla comunque insomma, di una pietra Non era la fiction della Rai. esatto, del romanzo, non era appunto così uno scrittoraccio, per cui addirittura a sua volta Rimskij-Korsakov la mette in musica e quindi insomma contribuisce ad alimentare poi un po' l'alone che sta intorno a tutto questo mistero. Diciamo che l'opera teatrale da cui Amadeus nasce, perché Amadeus di Forman in realtà è ripreso da un'opera teatrale di Peter Schaeffer del 79, se non mi sbaglio, e che a sua volta parte dal lavoro di Pushkin. Quindi ecco, è un po' un telefono senza fili, una catena che si va autoalimentando e che però rimane di alta qualità, perché appunto da Pushkin a Korsakov a Peter Schaeffer e poi finisce, in realtà non finisce, insomma ci sono tanti altri autori che ci hanno speculato, però diciamo per il grande pubblico rimane nell'immaginario poi fino ad Amadeus, del grandissimo Milos Forman, uno dei più grandi registi della storia del cinema. A mio avviso, e in particolare dotato per rendere le ricostruzioni, insomma, storiche e l'ambiente in maniera veramente bella. Questo non significa però che chiaramente Forman si basasse Una storia su storia originale che era. originale né su fatti storici insomma, realisticamente provati. E questo è. Questi due, diciamo, questi sono i responsabili della leggenda sulla rivalità tra Amadeus e Salieri, scusate. I fatti storici sono però davvero, davvero andati, come raccontato da quest'opera teatrale e poi da quella cinematografica, cioè con questo Salieri invidioso e ossessionato dal rivale, che poi appunto se lo era, fino al punto addirittura, poi come vedremo più avanti, accusato di provocarne la morte, perché una delle tesi di Pushkin è proprio l'avvelenamento, quindi proprio, siamo proprio all'estremo, cioè Salieri avrebbe causato la morte, addirittura di Mozart. Le tesi ovviamente vengono sostenute con molta convinzione da Pushkin e poi da chi ha ripreso, ma tutto deve un po', diciamo, oggettivamente rientrare poi nei confini di una semplice leggenda, forse alimentata anche un po' da più fonti. E come spesso accade, come si diceva prima, si sa che la fiction ha sempre più allure della realtà storica, e forse anche un po' giusto che sia così. Sì, ma infatti penso che alla fine vada letta un po' come una metafora molto bella e più generale di quello che vuole essere, cioè di quello che può sembrare, nel senso che poi appunto è molto più interessante leggere tra le righe il rapporto un po' universale che ci può essere tra i due, piuttosto che pensare che storicamente sia andata esattamente così e che tra i due c'era davvero questo rapporto, o che loro presi singolarmente erano così. Probabilmente è stato tutto un po' estremizzato, però per far capire un concetto poi interessante comunque da capire, insomma. Certo, è chiaro che l'artista, il regista, lo scrittore fa, appunto, usa una sinedoche, cioè prende una parte per il tutto per dimostrare una tesi che è quella un po' del rapporto che poi c'è in tutte le arti, in particolare forse nella musica classica, tra il sacro e il profano e quindi tra l'Apollino e il Dionisiaco, cioè nel senso Salieri è stato preso un po' come rappresentante di tutta una scuola appunto musicale, formativa, didattica, contrapposta poi invece a un'altra visione, un altro appunto un altro modo, che era quello di Mozart. Quindi Salieri come appunto rappresentante del gusto dell'opera italiana, della composizione, insomma di un classicismo piuttosto anche appunto radicato, insomma ancora un po' alle origini, grandissimo, di grandissima qualità, e soprattutto di questa visione un po' della musica del divino che appunto si contrappone invece diciamo, alla portata emotiva e innovatrice del caos geniale di Mozart, che caos chiaramente non significa caos nella scrittura o nella produzione, anzi, ma caos appunto inteso come calderone creativo di questo genio che poi appunto necessiterà di secoli quasi forse per essere compreso, e forse non basta. Quindi sono un po' come diceva appunto Maria, sono un po' due anime che sono state prese ad esempio per dimostrare appunto che ci sono appunto modi diversi, approcci diversi anche all'interno della musica classica, soprattutto in certi periodi storici, che dipendono da tantissimi fattori che non sono solo artistici, ma proprio anche Culturali e sociali, quant'altro. culturali, economici, eccetera, eccetera. Ma allora vi facciamo sentire un'altra piccolissima clip tratta sempre dal film, così giusto per darvi un assaggio e per farvi ricordare di questo film e magari farvi incuriosire e convincervi ad andare a rivedervelo. Sulla pagina sembrava niente. Un inizio semplice, quasi comico. Appena un palpito, con fagotti, corni di bassetto, come lo schiudersi di un vecchio cofano. Dopodiché, a un tratto, ecco emergere un oboe. Una sola nota sospesa, immobile. Finché un clarinetto ne prende il posto, addolcendola con una frase di una tale delizia. Quella non era la composizione di una scimmia ammaestrata. No, era una musica che non avevo mai udito. Espressione di tali desideri, di tali irrefrenabili desideri. Mi sembrava di ascoltare la voce di Dio. Mi scusi. Ma perché? Perché Dio avrebbe scelto un fanciullo osceno quale suo strumento? Era incredibile. Quel pezzo doveva essere un caso. Non era un caso. Mi No. spiace, caro Salieri, ma No, poi se ne accorge lo comunque. so. Ecco, sì, la clip è un po' anche appunto la spiegazione di quello che dite, insomma, l'esemplificazione di quello che dicevamo prima, cioè l'estremizzazione di questo Salieri, di questa figura di Salieri ossessionato, invidioso, che però idolatra Mozart finché poi non lo vede realmente, non lo incontra, insomma, secondo appunto la fiction, secondo come loro se lo sono immaginato, e rimane appunto talmente deluso da questa persona, da questo essere scomposto. Cosa che peraltro succede spesso, si dice che non bisognerebbe mai incontrare i propri miti. Infatti, è una bella parentesi, non bisognerebbe mai. E serve un po' per far capire che appunto questo dono, questa grandissima capacità di Mozart viene riconosciuta da Salieri, perché chiaramente ne ha gli strumenti, e a maggior ragione, riconoscendolo, chiaramente prende atto anche della propria inferiorità. È ovviamente, ripeto, una frutto di una fiction, nel senso sappiamo bene che non era questo il momento in cui si sono in realtà incontrati, però insomma, ecco, serve poi alla storia, serve poi alla diegesi del film, alla narrativa, per far capire insomma determinate cose. Il riferimento alla scimmia ammaestrata che Salieri fa è perché effettivamente il povero Mozart fin da piccolissimo era stato portato in giro come un po' una scimmia ammaestrata a esibirsi a tutte le corti, a tutte insomma, le case nobiliari d'Europa, dal padre che insomma aveva sfruttato questo suo successo e questa sua grandezza e sì, l'aveva spinto, però insomma l'aveva, ecco, incatenato in questa figura molto appunto del bambino prodigio. Anche passarono anche soldi. Da Firenze, tra l'altro, c'è stato anche anni fa, una rivocazione insomma del passaggio di Mozart da Firenze, dove alloggiarono col padre. Firenze va sempre di gran moda. Che fanti, ci fermi. Esatto, quindi, però la domanda che rimane è... Cosa c'è di vero? Cos'è che c'è di vero? Se proprio si vuole essere precisi, diciamo, in realtà tra i due sono testimoniati, almeno ciò che resta, scambi piuttosto cordiali. Ricordiamo che Mozart arriva a Vienna nel 1782. Sì, giusto? Sì. E quindi quando Salieri è comunque già maestro di cappella presso la corte degli Asburgo e quindi diciamo appunto già a un livello alto, molto alto. Sì, probabilmente il massimo livello a cui si poteva pensare di arrivare al momento. Quindi come dire, era Salieri in realtà nella posizione, storicamente nella posizione di forza, cioè comunque per quanto conosciuto, per quanto... E peraltro l'ha conservata, cioè non è che quando è arrivato Mozart gli è stato tolto qualcosa. No, anzi, cioè, Mozart ha poi sicuramente appunto, come vedremo, tentato insomma di inserirsi, però un po' per il suo carattere, per il modo di porsi, per il modo in cui lavorava, un po' proprio per il gusto dell'epoca, che al di là dell'imperatore Giuseppe, che molto lo amava, però in generale la corte, la nobiltà era comunque aveva un gusto molto legato, molto di più al modo di Salieri. Voleva essere rassicurata. E più che altro appunto ancora era molto... Non si parla appunto fino a Mozart che non la propone, poi si dirà il Ratto nel Sedale non esisteva, non era mai stata fatta un'opera in tedesco, cioè Mozart spinge per voler fare un'opera in tedesco, cioè quindi ha questa propulsione, questa spinta a innovare che ovviamente non era ben vista in quel momento e soprattutto da quella classe sociale e da quella, insomma, da quel milieu. Diciamo questo... il primo anno appunto in cui Mozart fa riferimento a Salieri è in realtà del 1773, quindi prima di arrivare a Vienna, e anno in cui decide di dedicare a Salieri delle variazioni al piano sul tema del mio Cariadone, tratto appunto dalla Fiera di Venezia del compositore italiano. Diciamo appunto che questi sei di differenza che hanno, avevano però peso, perché appunto Salieri era già più avanti nella sua carriera, effettivamente aveva già conquistato la fama presso la corte e i suoi successi teatrali erano già insomma più che conosciuti. Basti pensare appunto a opere come L'Armida, l'Europa riconosciuta, Falstaff, ossia Le tre burle. Diversamente appunto da Mozart, che in realtà al di là della sua carriera poi giovanile e insomma salisburghese, quando arriva a Vienna deve ancora dimostrare appunto di essere effettivamente all'altezza della sua fama di enfant prodige. Certo, e io direi a questo punto sentiamoci due pezzi, pensavamo di farveli sentire attaccati, no? Giusto? Sì, uno un Perché po' almeno li alto. confrontate anche più direttamente. E sono due estratti da due opere, in realtà non le più conosciute. Allora, Salieri vi facciamo sentire un'aria per soprano dall'Europa riconosciuta, un'aria che chi ascolta musica classica e opere lo sa, che spesso si cerca di, cioè per chiamare un'aria non si chiama con un numero o una cosa, ma gli si dà un nometto che più o meno faccia capire di quale pezzo si parla, e questa si chiama Numi respiro a lo sento. Boh, Ecco, insomma, perché tratto si dal fa così. esatto. E l'Europa riconosciuta è tra l'altro l'opera che fu scelta per l'inaugurazione del teatro alla Scala di Milano nel 1778, quindi insomma un onore abbastanza Non prestigioso male. per usare un eufemismo. E proprio questo lavoro, poi sentirete, ci trasmette proprio la grande maturità in realtà di questo compositore. Che con virtuosismi un po' tipici del bel canto e con queste colorature anche un po' ispirate, tra l'altro, a maestri come Gluck e insomma, ad altri del proprio periodo. Quindi, insomma, si parla sempre, ricordiamoci, che contrapposto a Mozart, ovviamente, è inarrivabile, però si parla sempre di un autore di grande prestigio, ecco, di grande maestria. Ma poi insomma lo sentiremo, un pezzo anche che qui viene nella registrazione che sentiamo è il soprano che lo segue è Diana Damrau, che boh, vabbè, insomma è una signora soprano, e il pezzo lo sentirete anche di una certa difficoltà, insomma, ma al di là della questione virtuosa è insomma un pezzo notevole. Invece di Mozart, a seguire, vi facciamo sentire un pezzo molto piccolino, tratto dal Ratto dal Serraglio, appunto, di cui vi abbiamo parlato. E è un pezzo strano perché, appunto, essendo un'opera in tedesco, vi farà un po' strano sentirlo perché, insomma, non siamo più abituati, ad esempio, a Flauto Magico, ma invece Ratto dal Serraglio è un ascolto un po' ostico, anche per noi adesso, figuriamoci per il 1782 in cui è stato portato in scena. E ora io il mio tedesco è veramente una merda. E comunque, questa è una rappresentazione da cui abbiamo tratto del 1994, quindi abbastanza recente, di Gunther Wevel. Che non so, fra l'altro, mi sono dimenticata di guardare se è un baritono o addirittura un basso. Comunque, insomma, sentirete, c'ha delle belle profondità nella voce. E l'aria si chiama Vai will ich triumphieren, cioè prendetelo con le molle perché Va davvero ve benissimo. lo metteremo sul sito Chi come sa si il chiama, tedesco capirà, faccia finta ecco, di faccia niente. finta di niente. E appunto Ratto del Serraglio Poi. KV 384, e vi facciamo sentire, però prima iniziamo da Salieri, l'Europa riconosciuta. Oh. triumphieren, wenn sie euch zum Ritter führen. Und die Hälse stieren zu, stieren zu. Und die Hälse stieren zu, stieren zu. Stieren zu. Und die Hälse stieren zu, stieren zu. Hüpfen will ich, lachen, springen und ein Freudenliedchen singen. Denn nun hab ich Ruhe vor euch. Wenn sie euch zum Ritter führen und die Hälse stieren zu, stieren zu, und die Hälse stieren zu, stieren zu, schleicht nur säuberlich und leise, ihr verdammten Haarensmäuse, unser Moor entdeckt euch schon, und die ihr uns könnt entspringen, seht ihr euch in unseren Schlingen und erhaschet euren Lohn, und erhaschet euren Lohn. Schleicht nur säuberlich und leise, ihr verdammten Haarensmäuse. Unser Moor entdeckt euch schon, entdeckt euch schon, entdeckt euch schon. Oh, wie will ich triumphieren, wenn sie euch zum Ritter führen. Und die Hälse stieren zu, stieren zu. Und die Hälse stieren zu, stieren zu. Bitten will ich. Ringen und Freudenliedchen singen. Ruhe hab ich dann vor euch. Triumphieren, wenn sie euch im Ritter führen. Und die Hälse stieren zu, stieren zu, stieren zu, stieren, stieren, stieren zu, stieren, stieren, stieren, stieren, stieren, stieren, stieren zu. Und die Hälse stieren zu, und die Hälse stieren zu, stieren zu, stieren zu, stieren, stieren, stieren zu, stieren, stieren, stieren, stieren, stieren, stieren, stieren zu. Und die Hälse stieren zu, und die Hälse stieren zu, und die Hälse stieren zu, stieren zu, stieren zu. Questo era quest'ultimo che avete sentito, Il ratto dal serraglio, e mentre prima era L'Europa riconosciuta di Salieri. È bellissimo perché mi piace, ho sempre sognato di poter fare come la barcaccia, che sono la mia trasmissione preferita sì. di Radio 3, poter Viva. Parlare di gossip e dell'opera. Sono molto contenta. Allora, diciamo appunto, Il ratto nel serraglio, ecco, appunto è da considerarsi fondamentale nel percorso di Mozart, proprio perché su sua insistenza l'imperatore Giuseppe appunto accettò di commissionargli un'opera in tedesco, che ora detta così non sembra niente, ma per l'epoca appunto era una cosa piuttosto inconcepibile che l'opera, la cui lingua era sempre stata e per moltissimo rimarrà l'italiano, soprattutto negli ambienti appunto di corte. Quindi ecco, se un teatro più tra virgolette borghese o popolare aveva magari già accettato, visto opere buffe piuttosto che piccole pièce in tedesco, in realtà l'opera appunto delle grandi corti e del circuito alto appunto non aveva mai accettato appunto un'altra lingua che non fosse l'italiano, per cui quest'opera è appunto un po' groundbreaking, come dicono gli americani, di rottura in questo senso, e fortemente voluta da Mozart. Questo è un aspetto che in realtà nel film di Forman si vede abbastanza bene, insomma è un aspetto che è abbastanza ben rappresentato. Non solo il problema era la lingua, ma era anche il contenuto, no? Cioè, Ratto nel serraglio, cioè il serraglio, sappiamo tutti bene, ecco, penso che cos'è, e quindi insomma portare alla corte di Vienna un'opera in tedesco che parla di un serraglio, di tutto quello che avviene, ecco, insomma, non si Di era più mai visto, turco. esatto, le famose cose, non a caso si dice, no, vengono cose turche, appunto. Un insuccesso in realtà, in questo senso, cioè non tanto di critica che all'epoca non era ancora troppo considerata, ma proprio di presa, ecco, perché paradossalmente un altro tipo di altri tipi di teatro e di spazi l'avrebbero un po' più tollerata, invece proprio quell'ambiente lì, al di là dell'imperatore che era abbastanza infatuato di Mozart. In realtà appunto fu abbastanza un insuccesso, fu abbastanza rifiutato e mise un po' un attimo, insomma, un freno anche a questa partenza esplosiva che Mozart avrebbe potuto avere. E due, vabbè, sì, appunto, loro due, Mozart e Salieri, a questo punto iniziano ad avere dei piccoli screzi, o comunque diciamo che si inizia a intravedere un motivo di contendere. Esatto, se appunto, come avevamo detto, al di là della stima reciproca, insomma, dei tributi che uno aveva reso all'altro, appunto, in realtà effettivamente non mancarono poi momenti di, un po', insomma, testimoniati, realmente avvenuti, di tensione. Nel 1790 addirittura Mozart accusò Salieri di plagio, ecco, e di volere, fino a voler insomma attentare alla sua vita, cioè lo accusò proprio di attentare alla sua vita, in realtà a causa della preferenza concessa all'italiano per quel che riguardava l'insegnamento della musica alla principessa del Württemberg. Quindi diciamo che l'ira di Mozart era stata scatenata un po' da questa concessione che era stata fatta a Salieri rispetto a lui dell'insegnamento. Che però rientra un po' nella logica, perché comunque, appunto, come si diceva, Salieri era un grado più alto nella Stimato. carriera ed era appunto maestro di cappella di corte, e quindi era anche un po', tra virgolette, normale che i nobili della cerchia, della corte, gli affidassero l'educazione musicale dei propri figli, piuttosto che, insomma, dei relativi. Per cui, ecco, questo è stato effettivamente un momento di screzio. E un altro episodio significativo in questo senso è quello relativo alla rappresentazione delle nozze di Figaro, che è l'opera successiva a Ratto nel Serraglio, e che debutta nel maggio del 1786 presso il Burgtheater di Vienna, scusate la pronuncia, e anche qui l'accoglienza non fu positiva, perché sebbene che Mozart, un po' scottato dall'esperienza delle nozze di Figaro, avesse accettato poi di prendere un libretto d'opera in italiano, il contenuto era però di nuovo piuttosto innovativo e provocatorio e comunque diverso da invece i temi alti che autori come Salieri e i suoi contemporanei avevano sempre proposto al teatro di corte. Basti pensare che quest'opera inizia con un personaggio che misura una stanza per far c'entrare un letto e la cosa poi, insomma, in generale viene buttata spesso insomma, sul ridicolo, sul sessuale, piuttosto che, ecco, cioè, ci sono degli aspetti che fino a quel momento mai erano stati presi troppo, ecco, in considerazione per un'opera. Quindi, ecco, un altro insuccesso, diciamo, comunque l'accoglienza anche che gli fu tributata, questa che poi è rimasta una delle opere più famose paradossalmente di Mozart, non fu certo positiva nemmeno in questo caso. Questa volta invece questo insuccesso non viene appunto male accolto dal padre di Mozart, Leopold, che accusa Salieri di aver boicottato, diciamo, un po' quest'opera presso il pubblico, spinto da gelosie, insomma, da invidia. Quindi del vero c'era Cioè, effettivamente. il vero è questo, cioè Leopold lo accusò. In realtà, se poi andiamo poi a vedere, ci sono delle altre, insomma, degli altri studi, delle altre teorie che hanno rilevato che Salieri in quel momento si trovava in Francia e quindi difficilmente avrebbe potuto architettare un boicottaggio alla corte di Vienna. Sicuramente, magari, non so, diciamo, volendoci così speculare, forse, diciamo, non gli dispiaceva se Mozart andava incontro a un insuccesso, però di base, ecco, accusato, insomma, che ci fosse poi una sua reale, non importava poi che fosse Salieri a boicottarlo, perché appunto bastava il gusto dell'epoca che non era favorevole in realtà. Ma il padre di Mozart era un po' rigidino. Sì, non la prendeva proprio bene. E appunto un altro aspetto che spesso si è voluto contrapporre, appunto, si è voluto appunto mettere in luce della contrapposizione tra i due, è quello dell'etnicità, proprio dell'origine della loro musica, no? Mettendo da una parte la tradizione del classicismo, dell'opera italiana di Salieri, e dall'altra questo germanesimo mozartiano, che sarà poi paradossalmente all'origine anche di tutta una concezione che appunto avrà bisogno di molto molto tempo, se si pensa fino a Weber e Wagner, no? Non verrà appunto ritirata fuori questa, non verranno ritirate fuori queste etichette né queste definizioni, quindi anche in questo già Mozart si percepisse già il genio di qualcuno che aveva poi messo i semi per qualcosa che fondamentalmente avrà bisogno di, insomma, di un altro secolo per poter fiorire. Si pensa anche, non so se l'ho già detto, che Salieri sarà poi anche maestro di personaggi come Beethoven, insomma, quindi ecco, non è che aveva però poi niente da invidiare sul momento, insomma. Direi proprio di anzi. Ma a questo punto io farei sentire il pezzettino dalle nozze di Figaro. Abbiamo appunto, prima hai accennato alle misurazioni del letto, infatti io vi facciamo sentire esattamente questo, l'inizio dell'atto primo, e ci iniziamo a avvicinare alla fine della trasmissione, quindi iniziamo un po' più a correre. Intanto sentitevi questo e poi andremo avanti sul resto. Susanna, guardo se quel letto che ci desina il conte sarà buona figura in questo loco. E in questa stanza? Certo, a noi la cena è generoso il padrone. Io per me te la dono. E la ragione? La ragione l'ho qui. Perché non puoi far che passi un po' qui? Perché non voglio. E qui osservo. Ma non capisco perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo. Perché io son la Susanna e tu sei pazzo. Grazie, non tanti elogi. Guarda un poco, si potria si star meglio in altro loco. È finita un po' brutale, la clip me l'ho trovata, era un po' brutalizzata. E ci sarebbe da ridere sull'italiano di Figaro, però non siamo alla barcaccia e quindi ve lo risparmieremo. E andiamo avanti, appunto, parlando velocemente del perché poi alla fine loro due, comunque Mozart e Salieri, si trovavano insieme alla corte a Vienna, che non era un caso, insomma. No, e i destini musicali dei due sono più volte incrociati proprio anche per volontà dell'imperatore, che li aveva al soldo, diciamo più saltuariamente Mozart e in maniera fissa Salieri, e diciamo fu proprio lo stesso Giuseppe che volle spesso far operare i due un po' in comune accordo, perché aveva un po' una visione, appunto, voleva insomma avere questo raggiungere questo obiettivo ideale di questo teatro che avrebbe coniugato le due anime, quella appunto dell'opera italiana più appunto conservativa piuttosto che insomma eccetera di Salieri, e questa visione invece appunto innovativa e più giovane di Mozart. Addirittura la testimonianza di questo è che, per esempio, la composizione della Clemenza di Tito del 1791, inizialmente affidata a Salieri, perché appunto era il maestro di cappella e comunque massimo compositore d'opera a Vienna in quel momento, almeno secondo il giudizio dell'epoca, che rifiutò, e questo consentì a Mozart di subentrare, di divenire l'autore di questa opera. Quindi non bisogna poi dimenticare che Salieri spesso dirige le composizioni sacre di Mozart, tra cui in occasione dell'incoronazione di Leopoldo II e Maria Luisa a Praga, e eccetera, eccetera. Insomma, addirittura l'ultima lettera di Mozart, che è datata 14 ottobre del 1791, getta una luce abbastanza chiara sul rapporto tra i due. Cioè, Mozart rivolge delle frasi a Salieri, che era spettatore del suo ultimo lavoro, Il Flauto Magico, dimostrando in realtà affetto nei suoi confronti, dicendo che Salieri aveva apprezzato l'opera. Quindi diciamo, forse questo un po' chiude e leva la definitiva... A fine si volano bene. Un po' volevamo se bene, nel senso anche un po' per forza o per amore, poi erano stati costretti in realtà in momenti... Ma sì, ma che erano amici. Forse appunto. E in realtà... Pushkin cioè aveva quindi insomma c'era andato peso, come dire, sul tutto, e aveva un po' appunto esagerato questo un po', come diceva Maria prima, un po' per dimostrare forse anche insomma in realtà delle tesi interessanti sulla musica stessa e sull'arte, insomma, usando questi due personaggi un po' come degli esempi, no, rappresentativi. Si arriva addirittura a teorizzare che appunto ci fosse, cioè, da parte di Salieri un astio tale da sperare, se non provocare, la morte, esatto, di Mozart, infatti, cosa che tra l'altro insomma in Amadeus, poi la ripresa del film, è molto, molto calcato. Sì, appunto, come si diceva prima, in realtà i fatti hanno messo in luce tutt'altro, però poi rimane sempre più impresso, purtroppo il male rimane sempre più impresso, e quindi Pushkin addirittura ha contribuito non un po' a rovinare un po' la reputazione dell'innocente Salieri, in realtà, perché la fiction di Pushkin accusa appunto l'autore di aver addirittura essere arrivato appunto, come si diceva, a avvelenare Mozart piuttosto che insomma a logorarlo nei suoi ultimi giorni, provocandone la prematura scomparsa. In realtà lui non è che stava bene di suo, no, Mozart, diciamo, non serviva a avvelenarlo. No, già la moglie, insomma, ci sono testimonianze della moglie, lettere, appunto, nella cerchia di amici che erano già da tempo preoccupati per le condizioni di salute, sempre più visibilmente precari, di Mozart, che a soli 36 anni, insomma, erano veramente disastrose, aggravatesi poi nel corso dell'ultimo anno e dovuti a una serie di fattori che le ricerche storiche hanno poi man mano rivelato, e malfunzionamento dei reni piuttosto che non sano sviluppo corporeo, una congenita debolezza, insomma, essere stato trascinato poi da piccolo per tutta l'Europa al freddo, insomma, era proprio, forse non aveva contribuito, ecco, alla sua salute. E quindi addirittura soffriva di una gravissima anemia e spesso, insomma, se dava segni di profonda depressione, se non, come si diceva, appunto, ci sono teorie addirittura sull'autismo, insomma, siamo arrivati proprio. Sì, ormai ne parlano tutti, sono in bocca più, di non tutti. È che faceva una vita sana, quindi, insomma, beveva e il resto, quindi la sua fine prematura in realtà non stupì più di tanto, più che altro in realtà non si può assolutamente ricondurre nella realtà storica all'intervento di che sia, insomma, di un'altra persona. E vi facciamo sentire, a questo punto non possiamo non farvi sentire il famosissimo Mozart, il Requiem di Mozart. Grazie. E lavoro incompiuto. Vi facciamo sentire due pezzi della messa di Requiem in re minore K626, appunto. Sono senza voce oggi, sempre colpa del sabato sera. E vi facciamo sentire il Confutatis Maledictis, a seguire, come nella realtà uno dietro l'altro, del Lacrimosa. Io, cioè, sono una fan sfegata, secondo me dovete alzare il volume tantissimo, perché questi due pezzi non si possono sentire a un volume basso, è ignobile, non fatelo. Thank you. appunto, no? E quindi dopo il Requiem di Mozart, la messa del Requiem, appunto, dobbiamo, per dovere di cronaca, e anche perché insomma, non è che fa proprio schifo, farvi sentire anche il Requiem in Do minore per solisti, coro e orchestra di Salieri. Pezzettino questo qua di 6 minuti circa, che viene chiamato Dies Irae. E ci mancano pochi altri ascolti, ci mancano solo 3 ascolti e poi vi stupiremo con un esibizio finale. Sì, un'esplosione finale. E, intanto sentitevi questo Dies Irae di Salieri. Thank you. Questa era la versione del Requiem invece di Salieri, del 1804 tra l'altro, insomma, già in là. Eh sì, abbastanza in là. Per dire quanto peso avesse poi questa, già all'epoca, queste voci, questa dicerie, fantasia sulla rivalità tra i due, già prima, diciamo, di Pushkin della fiction, addirittura appunto Salieri poi nel tempo, insomma molto tempo dopo, da vecchio ammalatosi di demenza durante un delirio, proprio così affermò di aver ucciso Mozart, di essere lui, di averlo fatto, e ovviamente influenzato probabilmente anche da tutto questo diceria che si era accumulata subito dopo la morte di Mozart, nel 91. Quindi ecco, detto questo, a tutti sembrò la spiegazione più ragionevole a una morte piuttosto appunto veloce e insomma tremenda come quella di Mozart. In realtà ovviamente, non, come si è detto prima, non c'era nessun alone di mistero sulla morte di Mozart, e allora come oggi chiaramente si faceva un po' fatica a prendere atto della scomparsa comunque di un genio, di un grandissimo dell'arte. Si tendeva, insomma, si faceva poi più facilmente congetture più strane e fantasiose per spiegarsi, rendere più... come Elvis, esatto. Ma lui non è morto, lo sappiamo, certo. Per rendere questa stessa morte più accettabile. Quindi questo per dire che Salieri stesso alla fine, non nei suoi deliri, talmente ossessionato un po' da questa cosa, ecco. E insomma, niente, come detto, appunto, a parte alcuni screzzi, Salieri effettivamente non solo nutrì mai rancore, ma gli fu appunto, pare, come si evince da carteggi, dalle lettere di Mozart, sinceramente amico, insomma, aiutandolo anche poi in diverse occasioni, essendo poi lui effettivamente quello più alto messo in grado meglio di carriera in quel momento. Quindi Salieri viene appunto oggi rivalutato, come si diceva, molto anche alla luce di, insomma, di studi e di nuove testimonianze, che aiuta anche meglio a comprendere appunto l'importanza della sua influenza come compositore. Poi dobbiamo fare l'ultimo, il cenno che ormai abbiamo deciso che faremo sempre. Esatto. C'è una citazione che dobbiamo fare sempre, in tutte le puntate, di qualsiasi cosa parleremo. La troveremo sempre e non sarà probabilmente difficile. E non so, molti di voi sicuramente si ricorderanno che in una puntata dei Simpson, certo, talmente questo duello tra Salieri e Mozart è diventato appunto famoso, che in un episodio addirittura inserito, mi sa, di una puntata di Halloween dei Simpson, ci sono il duello tra Salieri e Mozart, ovviamente Lisa Simpson e Salieri, e Bart e Mozart. Chiaro. Chiaramente non poteva non essere così. Quindi insomma, ecco, talmente entrato nell'immaginario pop il buon vecchio Matt Groening. Decidete voi se stare per Lisa o per Bart. Chiaramente. Non è difficile. Va bene, vi facciamo sentire adesso un pezzo per farvelo sentire, non perché ci abbiamo da raccontarvi qualcosa di particolare in merito, ma perché ci piace, del Flauto Magico. Sì. Perché insomma non si può parlare di Mozart e non far sentire il Flauto Magico. E di nuovo torna il maledetto tedesco, Ach, Ich, Fuss, sempre per soprano, una super soprano, Lucia Popp, in una registrazione del 1969, nel ruolo di Pamina, ovviamente, secondo me un pezzo veramente veramente bello. Thank you. questa appunto era un'area di Pamina che non vi rileggerò perché il tedesco è troppo brutto, ma poi lo guarderete sul sito, tratto appunto dal flauto magico. Finiamo con un finalone esplosivo, trash un po', che farà inorridire i puristi della musica classica, ma tanto secondo me nessuno dai nostri ascoltatori è un purista della musica farà classica. Farà però gioire gli amanti insomma, di altro, di tutto il resto, infatti. Perché è un ascolto di due personaggi buffi brasiliani, perché dobbiamo fare una dedica dedicata al Brasile. Oggi. E che sono Edson Cordeiro e Cassia Eller. Io sono stata a un seminario di Edson Cordeiro, che è una persona bellissima, secondo me. È un controtenore brasiliano che ha esordito negli anni 90 con queste cose che ora andrete a sentire. Poi dopo è diventato un po' più serio, diciamo che ha sempre alternato entrambe le cose, però insomma secondo me è un controtenore di tutto rispetto, e dopo ha fatto insomma diversi brani più seriosi che potete andarvi a vedere su YouTube, tra cui anche altre cose di Mozart interessanti, ma questo qui è una sua interpretazione che fa con Cassia Eller fondendo la Regina della Notte, la celebre aria della Regina della Notte del flauto magico, sempre con attenzione, I can get no satisfaction. E appunto dobbiamo fare questa dedica, sì, perché non possiamo non farla. No. Obbligata. Allora, questo è dedicato al carissimo Bruno che ci ascolta oggi dal Brasile e che ci manca molto. Quindi, Bruno, questa qui è per te. So che apprezzerai. Io non lo conosco, ma già il fatto che ci ascolta dal Brasile me lo fa stare simpaticissimo. E quindi... lo è. E quindi niente, vi salutiamo con questa perla e vi lasciamo a 3000 siepi, che oggi sarà una puntatona dove vi racconterà di alcune cose molto divertenti che non vi posso anticipare, anche perché in realtà non me le hanno dette tutte. Spoiler. Infatti però vi consiglio vivamente di rimanere, e noi ci risentiamo invece domenica prossima, sempre intorno alle 4:30 con La fuga del gatto. Ciao ciao! Ciao a tutti!